Di Giovanni Minoli. Riforme, sostegno alla crescita e aggiustamento dei conti pubblici. Le misure economiche varate dal Consiglio dei Ministri confermano la strategia del governo. Partiamo dal DEF, il dato centrale è la revisione delle stime legate alla crescita, uno 0,1% in più che di fatto mette a disposizione risorse maggiori. Consiglio dei Ministri di 2 ore che ha varato, oltre al documento di economia e finanza e al programma nazionale delle riforme, anche la manovrina da 3 miliardi e 4, richiesta da Bruxelles per evitarci l'apertura di una procedura di infrazione per violazione della regola del debito. Le risorse arriveranno dalla lotta all'evasione fiscale, dal taglio alle spese dei ministeri, dagli aumenti di entrate, via libera anche alle zone franche per l'area colpita dal terremoto e quindi zero tasse e contributi alle imprese per 2 anni. Abbiamo conti in ordine e i conti in ordine li abbiamo non aumentando le tasse, ma accompagnando il risanamento con misure di sviluppo e di promozione della crescita. Onorevole Francesco Boccia, buongiorno, presidente della Commissione Bilancio della Camera. Ecco, è vero quello che ha detto Gentiloni? Buongiorno. Ha ragione Gentiloni. Abbiamo conti in ordine e dobbiamo però avere più coraggio se vogliamo la crescita. Senta, ma la manovra è quella giusta per l'Europa? La manovra è quella in questo momento giusta per evitare una procedura di infrazione, sì, che sarebbe stata ingiustificabile sotto ogni punto di vista. Senta, Renzi ha detto sostanzialmente, ha dettato a Padoan le cose da fare e da non fare? Glielo dirò quando leggerò la manovra, se non ci sarà anche questa volta la web tax, temo di sì. Spero di no per tutti, spero di no sia per Padoan che per Renzi. Perché c'è la possibilità che non ci sia la web tax? Ma io spero che almeno nel DEF ci sia l'impegno del governo italiano, quindi poi della maggioranza che dovrà approvarlo, di far pagare finalmente l'IVA, le multinazionali web, che considerano l'Italia una sorta di far west, l'Italia e l'Europa. Una sorta di banca, senza dove prendere soldi senza pagare, e non restituiscono, a costo zero. Non danno nulla a nessuno. Nulla a nessuno. Ecco, Renzi ha detto che le tasse si sono abbassate, ma abbassate dove? No, le imposte sul lavoro in Italia si sono ridotte, purtroppo sono aumentate alcune tariffe locali. Appunto, perché sembra che il gioco sia sempre quello di abbassare centralmente e rialzare localmente, quindi insomma è un pochino uno scaricabarile più che altro. Un po' la storia politica italiana dal Titolo V in poi, si è data autonomia agli enti locali e alle regioni in cambio di altre tasse, però, onorevole, che non dobbiamo più fare. Però intanto anche sto giro lo facciamo. Senta, onorevole Boccia, i dati Istat però dicono che i prelievi di imposte nel 2016 sono rimasti invariati, in realtà. Sì, sono rimasti invariati perché c'è stata una riduzione oggettiva sul lavoro, l'IRAP sul lavoro non c'è più, questo merito che va dato a Renzi, e con la decontribuzione in alcuni anni, io vorrei che la decontribuzione sul lavoro diventasse strutturale, non una sorta di bonus annuale, nel 15 e nel 16 la riduzione è stata oggettiva. Ecco. Poi alcune tariffe sono aumentate e quindi compensa, appunto. L'Italia comunque regge per quello che regge, perché regge la sua manifattura. La Corte dei Conti però ci dice che il nostro cuneo fiscale è di 10 punti sopra la media europea, non è lì che si doveva intervenire? Assolutamente sì, eravamo partiti bene nel 2015 riducendo di 8.060 euro l'anno i contributi per ogni lavoratore, e purtroppo non è stata continuata quella politica. Perché lasciando, in sostanza, onorevole Boccia, lasciando invariato il cuneo fiscale, si chiede alle imprese qualcosa di eroico per competere sui mercati. Alle imprese, certo, consentire alle imprese di fare una cosa che non possono fare, perché se un lavoratore medio italiano, soprattutto dal punto di vista fiscale, ti costa quanto in un paese che ha magari risorse naturali, che paga meno l'energia, che ha costi di infrastrutturazione, costi dei servizi più bassi, certo, però l'Italia non ce la fa. Le imprese italiane sono davvero eroiche. Ribadisco, in questo momento il Parlamento tutto dovrebbe pretendere la decontribuzione sul lavoro piena come quella del 2015, ma per sempre. Anche perché questa decontribuzione sarebbe a fronte dei salari fra i più bassi d'Europa. Quindi non è che... questa è la beffa vera, è che non sono contenti in Italia. Pagano tanto le imprese e non sono pagati i lavoratori. Infatti sono scontenti sia i lavoratori che le imprese. Senta, Berlusconi è stato martellato per i condoni e per le manovre a favore dei rientri capitale che ha fatto. Adesso il centrosinistra fa lo stesso. Si sbagliava? Chi si sbagliava? Prima adesso o Berlusconi si sbaglia il centrosinistra? Era necessario, le critiche non avevano senso? Com'è? Erano corrette le critiche prima, sono corrette le critiche oggi, nel senso che si recuperano capitali all'estero una volta, una tantum. Quando le recuperi ogni anno, ogni tre anni, una volta ogni quinquennio, qui siamo ormai a due volte a legislatura, significa che non funziona. Se non funziona, un colabrodo e appunto. Che con la brodo vincono i furbi, vincono quelli che portano i soldi all'estero e poi li fanno rientrare, quindi lavati, è una cosa che non funziona, non può funzionare, e quindi le ribadisco. Ma però siete tutti lì in maggioranza, Dentro la maggioranza c'è chi non la pensa in quel modo. Senta, onorevole Boccia, quando può vota anche. Senta, onorevole Boccia, nel DEF sono previsti 2,8 miliardi per l'aumento del pubblico impiego nel biennio 2016-2018, 2,3 nel 2019 e 4,6 miliardi nel 2020 a favore di personale che è illicenziabile e tutelato. Cosa resta per chi fa impresa nel nostro paese? L'aumento dei contratti della PA andava concesso. Ricordo che dal 2009 che non ci sono aumenti, pensa ai protetti, però deve anche pensare a quelli che lavorano per gli altri, perché poi anche nello Stato c'è gente che lavora. Non c'è dubbio, però io le ho dato solo dei numeri e le ho fatto una domanda. Alle imprese, noi per aiutare le imprese possiamo solo fare una cosa, abbassare le tasse sul lavoro, non chiedono altro. Le imprese chiedono che almeno il costo fiscale dei lavoratori venga sensibilmente abbassato. Io ribadisco che va fatta della priorità, altro che gli 80 euro. Parliamo degli 80 euro, lei li avrebbe cumulativi, lei li avrebbe confermati per chi lavora già? No, l'ho già detto, con quei soldi possiamo abbassare le tasse. Insomma, quei 10 miliardi lì vanno presi e messi sul cuneo fiscale, questo sta dicendo. Abbassiamo per sempre di 8.000 euro di contributi l'anno il costo dei lavoratori, una parte di questi 2.000 li mettiamo in busta paga e ai giovani diamo salari netti più alti, sono tutti più felici e secondo me sono felici anche i destinatari degli 80 euro, anche perché quando esci dalla fascia li devi restituire, appunto, come è successo l'anno sta scorso, succedendo a molte persone, 1,5 milioni di persone che hanno restituito, è una cosa che non ha alcun senso. Infatti, senta, ma nel DEF non c'è la riforma del catasto perché c'è stato un veto di Renzi oppure no? Questo deve chiederlo a Padova, allora vediamo se non c'è. Io penso che serva e le cose che servono non vanno fatte solo a inizio legislatura. Quindi lei vorrebbe che ci fosse la riforma del catasto? Assolutamente. Senta. Sì, è necessario. Io penso che la vogliono gli italiani, stanchi di vedere coloro che pagano sempre comunque perché hanno una casa normale, accatastata bene perché figlia di un sistema. Vabbè, insomma, ci vorrebbe la riforma del catasto per far pagare di più chi non per far pagare il giusto. Il giusto. Che alla casa, ma allo Stato non risulta che alla casa. Senta, l'inflazione. Però chiedono i condoni poi, esatto, in alcune regioni, non so, ne dico una a caso, una campagna. L'inflazione non sale, il quantitative easing continua, per fortuna, a esserci. Possiamo sfruttarlo per almeno una riforma che abbia veramente un impatto sul fisco? Certo. Quale? Il quantitative easing. Quale riforma, dico? Sì, intanto io le dico che il quantitative easing secondo me dovrà continuare ad esserci, perché pensare che finisca a dicembre significa suicidarci. Non c'è dubbio. La riforma principale... Cioè, ci va bene che non sale l'inflazione, diciamo. Sì, ci va molto bene, però l'inflazione fisiologica di un punto e mezzo ci vuole. Sì, sì, ci vorrebbe. Senta, lei è il coordinatore della mozione Emiliano per le primarie del PD. Per il Sud, che cosa proponete di preciso che Renzi non propone? Intanto di consentire alle imprese del Sud di avere i propri diritti in maniera automatica. Siamo stanchi dello Stato che fa i bandi e della pubblica amministrazione che filtra gli imprenditori. Vogliamo credito d'imposta automatico sempre. Se tu fai, hai quel diritto. Se tu investi, hai. Non hai bisogno di chiedere alla regione o allo Stato automatismo. Che il tuo diritto ti venga riconosciuto, e questo vale per le imprese e per le famiglie. Certo. Se tu sei sotto quella soglia di reddito, l'asilo nido è gratis, è automatico, è un certo. tuo diritto, non devi chiederlo. Senta, onorevole Boccia, lei approva il fatto che in piena campagna elettorale il suo candidato Emiliano sia andato a consegnare gli SMS di Lotti su Consip ai magistrati? Forse un minimo di fair play, no? Chiesto, è un magistrato, le leggi si rispettano. Cioè, sul magistrato lì abbiamo che tipo di magistrato è? In aspettativa, pronto a tornare? Com'è? Emiliano intanto è sempre stato un magistrato antimafia. Questo lo sappiamo. Lo sottolineo perché è sempre stato in prima linea e spesso ha messo la propria vita a rischio, come è noto. E questo è in aspettativa da 12 anni, anzi da 13 anni. Vabbè, su questo c'è un problema, che si aspetta un giudizio del CSM. Senta... Sì, peccato che il CSM abbia scoperto la condizione di Emiliano con 12 anni di ritardo. Questo... 12 anni che è in aspettativa. Se vuole che le faccia l'elenco di cose scoperte dopo 12 anni, è un elenco molto lungo. Che aveva già fatto per due volte il segretario regionale del PD, nessuno l'aveva messo in discussione. Senta, adesso che un carabiniere sospettato di aver manipolato le intercettazioni ai danni del padre di Renzi, Orlando ha detto che è una cosa inquietante, Emiliano invece non ha detto nulla. Perché? Penso perché Emiliano è ancora con una gamba... è su una carrozzella e ovviamente sta facendo una campagna elettorale straordinaria di Stato. Non è che non dichiara. Non gliel'hanno chiesto. Le domande le risponderà. È tutto inquietante, una vicenda che va chiarita. Io, come ribadisco sempre, in Italia per fortuna c'è sempre un giudice che giudica un altro giudice. Il problema è che i tempi non corrispondono. Spesso si muore nel frattempo. Rispetto dei diritti delle persone, soprattutto di chi si deve difendere. Quindi esattamente. Condivido la votazione di Orlando. Senta, le faccio un'ultima domanda. C'è qualcosa però di profondamente malato in questo rapporto tra che adesso vede coinvolti carabinieri, magistratura, politica e magistratura, magistrati e procure che lottano fra di loro? Ma no, anche in magistratura tra le forze dell'ordine cose camminano sulle gambe delle persone. Ci sono persone straordinarie e corrette, ma che questo davvero non c'è dubbio, e ci sono dei furbi. E io dico semplicemente, non abbiamo bisogno in questo momento di fare di tutta l'erba un fascio, e aspettiamo, vediamo cosa succede. Vediamo. Intanto sono successe molte cose, in attesa di vedere cosa succede, sono successe molte cose. Sì, però succedevano anche prima, di questa stagione. È vero. E la politica purtroppo, sia prima che oggi, reagiva nello stesso modo. Cioè male. Ma non solo male, con un tasso di ipocrisia molto alto, nel senso che l'aspirante uomo di governo diventava giustizialista, si è garantisti sempre dopo che si è stato dopo. Al governo. E invece bisogna avere la forza. Allora bisognerà fare un bisognerà fare un giro tutti al governo, così almeno è fatta, si è risolto no, il problema. No, non è necessario. Io penso che il garantismo, siccome è nel DNA della Repubblica Italiana, basta riscoprirlo, ma riscoprirlo ma molto, prima, non solo quando conviene. Va riscoperto molto. Grazie, onorevole Boccia, 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Insomma, tu Mario ti aspettai questa manovra, cosa ti manca per dare la tua opinione? Il testo. Ah, va bene. Perché la cosa surreale è che stiamo discutendo delle indiscrezioni che sappiamo da un po' di giorni, aggiornati a ieri, ma il testo né nella manovrina né del DEF non c'è ancora. Io lo attendo. Vabbè, vedremo. Intanto, intanto il Sud sembra un mondo a parte, lontanissimo. Pure, però non è neanche un governo nordista, Pietrangelo. Cosa è successo? Come non è un governo nordista? No, è la insomma... diretta emanazione di Matteo Renzi. Che Matteo non Renzi è stato... Non so se è del nord. Non so se per me ha che sono di Torino, Giovanni. Uno di Firenze Matteo sta Renzi... a metà strada. Grazie, ha posso... ragione Giovanni. No, però se posso ricordarvi, Matteo Renzi è quello che appunto a sud di Firenze non ha mai considerato niente e ha trasformato ancora una volta il sud soltanto in un deposito elettorale. Gli è andata male al referendum, ci ha tentato radunando le clientele. Fino a quando tratterà i cittadini solo come cliente elettorale non si può fare niente. Comunque, 800240024 numero verde 349-238-6666 l'SMS. Se la Casa Bianca sperava di dividere il fronte pro-Assad, ebbene, si sbagliava. Vladimir Putin ha parlato con il presidente iraniano Rouhani, i due restano al fianco del regime di Damasco. Ira della Russia, principale alleato di Assad, che parla di aggressione irresponsabile e accusa la Casa Bianca di aver progettato l'operazione militare prima della strage con gas letali. Gli Stati Uniti avvisano la Russia di essere disposti a lanciare altri attacchi contro il regime siriano se necessario. La rappresentante statunitense ha anche invitato la Russia a non proteggere più un criminale di guerra e a unirsi agli sforzi per una transizione politica. Professor Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, buongiorno. Tillerson oggi è a Mosca. Che cosa c'è da aspettarsi da questo incontro col ministro degli esteri russo Lavrov? Credo che occorre anzitutto constatare che vi è stato un mutamento di linea su Assad, sul presidente siriano. Ancora qualche giorno fa la rappresentante degli Stati Uniti all'ONU lasciava intendere che senza di lui sarebbe stato difficile creare nuova stabilità per il paese. Oggi, dopo l'attacco chimico, vi è stato un rovesciamento di posizioni e Assad se ne deve andare. Ecco, ma su questo attacco chimico i russi contestano la ricostruzione che attribuisce ad Assad le bombe chimiche. Gli USA invece chiedono una commissione per verificare. Insomma, c'è un conflitto di interpretazione su questa cosa? Sì, per il momento c'è un conflitto di interpretazioni. Il rimprovero che può essere mosso a Trump è stato quello di decidere un'azione di rappresaglia senza avere accettato quella proposta di inchiesta che Putin aveva avanzato immediatamente. Ora un'inchiesta è necessaria, ormai non si può più fare prima del bombardamento, il bombardamento c'è stato, ma questa inchiesta è pur sempre necessaria perché in quella guerra civile abbiamo constatato più di una volta che il nemico, naturalmente in questo caso i jihadisti, hanno una evidente tendenza a usare i civili come scudo. Certo, è accaduto durante l'assedio di Aleppo, è capitato e accade normalmente in tutte le guerre civili dove la distinzione fra l'obiettivo militare e l'obiettivo civile è sempre molto complicata. Ecco, gli Stati Uniti però hanno usato toni duri e missili contro Assad e il regime, però non contro la Russia, è un avvertimento più che altro per la Russia? Io credo che si voglia conciliare due posizioni difficilmente conciliabili. Se davvero si vuole andare d'accordo con la Russia, non si può dimenticare che la Russia ha la sua rete di amicizie e di alleanza nella regione e chiederle di rinunciare e chiederle di fare qualcosa che è contrario ai propri interessi. D'altro canto è evidente che sì, Trump può modificare e correggere la sua linea, soprattutto se ha l'impressione di trarre vantaggio per la sua immagine da una decisione robusta come quella dell'attacco chimico, ma su un punto sembra deciso a non modificarla, che è quello dell'ingresso in guerra con soldati sul terreno. Ecco, infatti non si può più considerare una politica isolazionista quella di Trump, mi pare, dopo i bombardamenti in Siria. Per la verità Trump continua a essere contrario a qualsiasi partecipazione, anche Obama per la verità nella fase durante la sua presidenza si era dimostrato molto contrario a nuove guerre e cercava in qualche modo di cancellare il passato, però aveva sempre in qualche modo aumentato il contingente ogni qualvolta gli sembrasse necessario o comunque ogni qualvolta forti pressioni da parte dei militari lo costringessero. Però Trump ha fatto una campagna elettorale sulla base dell'isolazionismo, che in ogni caso non è quello che sta facendo in questo momento, diciamo. C'è stato l'attacco, okay. Però attenzione, perché voglio dire, questa idea che si possa in qualche modo non fare la guerra, o quando la si fa soltanto dal cielo con dei droni o con delle bombe senza correre rischi, è la peggiore delle soluzioni possibili, perché certo, non fa che aumentare nei confronti degli Stati Uniti il sentimento di un impero ingiusto, arbitrario, che in qualche modo non espone a rischi i suoi soldati, ma espone a grandi rischi le popolazioni, certo. Ecco, ma lei, professor Romano, crede che la Cina raccoglierà l'invito di Trump a impegnarsi direttamente contro la Corea del Nord? Naturalmente noi abbiamo constatato che anche nel caso della Corea del Nord Trump ha agito, come dire, robustamente. Sì, però c'è una fondamentale differenza fra quello che accade in Medio Oriente e quello che accade nella Corea del Nord. Nella Corea del Nord il nemico, vale a dire Pyongyang, nella Corea del Nord le armi nucleari le ha. Certo. Ma la Cina secondo le... E quindi sono in qualche modo soggetti a pressioni americane. Mentre invece la Corea del Nord può replicare. E allora, voglio dire, davvero ci si vuole mettere nella situazione di provocare un intervento militare della Corea del Nord? La speranza è naturalmente che la Cina riporti all'ordine questo suo ragazzaccio. Ecco, lei pensa che lo farà la Cina? Sì. Ma io credo che la Cina sia anche piuttosto seccata e annoiata, infastidita da questo ragazzaccio che ogni tanto prende queste decisioni. Però non dimentichiamo che se l'abbandono della Corea del Nord significasse la prospettiva di una riunificazione della Corea, no, la Cina non potrebbe accettarlo, perché significherebbe avere gli Stati Uniti sui suoi confini. Certo, ma per Trump è più importante un accordo con la Russia o con la Cina? Io credo che dovrebbe essere più importante sotto il profilo economico l'accordo con la Cina, con la Russia, i rapporti economici sono tutto sommato abbastanza modesti. Ma se davvero il suo obiettivo è quello di sconfiggere l'ISIS, il terrorismo islamico, lui se l'è donato, si è dato questo obiettivo come un obiettivo qualificante della sua linea politica, non può fare a meno della Russia. Anche perché la Russia nell'area oramai ha un predominio in qualche modo. È un po' punto di riferimento. Vede, sì, certamente, ma non soltanto quello. La Russia in realtà è stata, anche se noi ce ne siamo un po' dimenticati, oggetto proprio, la maggiore vittima del terrorismo islamico. Terrorismo islamico per parecchi anni. Senta, il G7 di Taormina rischia di essere un fallimento senza la presenza della Russia? Ma io continuo a pensare che fu un errore passare dal G8 al G7, ma questo è accaduto già da un pezzo e non è certo questo il momento in cui la maggioranza dei paesi sarebbe disposta a invitare la Russia. Però Gentiloni, quando era ministro degli esteri, aveva dato segno di voler Putin a Taormina. Pensa c'è ancora un margine oppure no? No, non credo che per il momento sia possibile, perché probabilmente si metterebbero di traverso comunque, cioè, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Ha visto che la Gran Bretagna tra l'altro è diventata, come dire, la più, come dire, fautologica promotrice di una nuova guerra fredda, certo, con questo ministro degli esteri che mi ricorda più, certo, coreano. Certo, infatti è stato però messo in minoranza, diciamo, sì, sulla sua linea. Senta però, Mattarella cosa ha detto a Mosca durante l'incontro con Putin? L'amicizia tra Russia e Italia è un'amicizia solida, malgrado le difficoltà nel contesto internazionale e del difficile rapporto che si è creato da alcuni anni tra Unione Europea e Russia. Il rapporto di amicizia tra i nostri due paesi è rimasto molto forte, con una volontà di superare con il dialogo, di contribuire con il dialogo a superare i problemi, a risolverli e a riprendere con maggiore vigore su tutti i versanti lo sviluppo dell'amicizia. Ecco, sono parole di circostanza oppure sono parole che aprono uno spiraglio? A me sembrano parole di grande continuità, così avrebbe potuto parlare Andreotti e quando non parlava comunque così agiva Andreotti. Ha sempre avuto questa linea nei confronti della Russia e la Russia l'ha sempre apprezzata. Senta, per chiudere, ma bisogna tornare all'ONU per sperare di gettare le basi per un nuovo ordine mondiale? Ma io non credo che l'ONU possa darci molto aiuto in questo campo. Certo, non possiamo farne a meno. Un mondo senza ONU sarebbe un mondo inevitabilmente peggiore. Alcuni problemi effettivamente l'ONU li può risolvere, ma in una situazione in cui i governi agiscono spregiudicatamente nel modo in cui è costantemente accaduto nel corso degli ultimi 20 anni dopo la fine della guerra fredda, no, ho l'impressione che l'ONU non sia il luogo di cui abbiamo bisogno. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Insomma, Mario, che dici? Mattarella è efficace. Sì? Sì, sì, perché ha tenuto una posizione non schiacciata sulle posizioni dell'America, sì, molto attenta alle ragioni della Russia. Non ha lanciato nessuna accusa sul dossier Siria, ha chiamato un'indagine indipendente dell'ONU sui gas e ha detto che ci vuole la collaborazione della Russia anche in questo caso. Quindi secondo me è interessante. Secondo te Pietrangelo, l'Iran cambierà strategia di fronte alla nuova politica estera di Trump? No? Il cambiamento c'è, ma in conseguenza non adesso tanto vota, di Trump... Sì. Ma il ruolo di Putin. C'è la scacchiera e dall'altra parte della scacchiera ci sono appunto la Russia, l'Iran, la Cina. No, la Turchia sta più. Sta un po' di qua, un po' di là. Si butta con Trump. Non lo so. Si butterà con Trump. Vabbè, può darsi. Si butta. Vabbè, si butta con Trump. Pubblicità. Mix 24. Allora Pietrangelo, che ascoltiamo oggi? Eccola. Allora? Orologi da polso, orologi da taschino, tutti con un certo cipiglio e sussiego, e poi le sveglie, quelle digitali, quelli con la carica manuale, i datari, i calendari, i segnatempo, ma anche le clessidre, gli astrolabi hanno trovato posto in metropolitana in una corsa speciale in direzione dell'essere, avendo tutti loro il tempo dalla loro parte. Ha chiamato Alice dal suo paese, quello delle meraviglie, ha voluto questo brano da dedicare a Martin Heidegger con un messaggio: il nostro sentiero non sarà mai interrotto. Alle ore 9:38 la foresta nera irrompe la nostra trasmissione, determina il futuro dell'umanità. Tempo, evviva. Vai con la bolla, Mario. Che bella voce, sì. Va bene, Say What You Want, di pure quello che vuoi, Texas 25. E di pure quello che vuoi al telefono, c'è un aggiornamento sulla crisi nordcoreana che è il punto, esatto, che è il punto che stavate affrontando poco fa con l'ambasciatore Romano. Sergio Romano, sempre precisissimo devo dire, c'è stata una telefonata tra Trump e Xi, il presidente cinese, ha alzato il telefono, ha chiamato il presidente americano a pochi giorni, attenzione, molto significativo perché avviene pochi giorni dopo che si erano incontrati in Florida, giorni. Segno che l'escalation è presente, è reale. L'invio della portaerei da parte di Trump è il classico, la classica mossa, messaggio, si chiama show of force, no? Del presidente americano sulla Nord Corea. La verità è che il coinvolgimento della Cina è necessario. E a questo punto, dopo la telefonata di Xi, a mio avviso probabilmente succederà qualcosa nei prossimi giorni, anche perché stavamo parlando prima, come che diceva Romano, è infastidito quel ragazzo, annoiato. I cinesi sono annoiati da quel ragazzo, dalle mie parti non lo so, ma dalle vostre, ma quando i cinesi si annoiano non è una buona cosa. Però c'era una notazione impersonale, e la, sì, Cina, la Cina annoiata e infastidita. Tu sai che nelle diciamo, teorie geopolitiche la Cina è considerata come un'isola. E gli isolani, come tu ben sai, butta fuoco, non dovrebbe sfuggirti affatto, sono persone imprevedibili. Sono circondato da isolani. Allora finivi, stavi dicendo? No, niente, quindi dobbiamo dopo aspettarci. Questa telefonata si sono divisi i ruoli? Si sono divisi i ruoli. Bad cop, good cop. Poliziotto buono è Xi e il poliziotto cattivo è Trump. Vediamo se funziona. La missione è quella di prendere il bandito, in questo caso lo svitato dell'Asia, Kim Jong-un. Salamino! Il mandato è il mandante. Giovanni, com'era il mandante? Il mandato è un mandato che ha come caratteristiche educativo-culturali, basate su un percorso che sia basato sul merito. Quindi il mandato è stato tanto chiaro quanto di ordine educativo. Generale. Educativo, scusa, educativo culturale perché? Educativo culturale e merito. Esatto. Giusto? Quindi abbiamo le idee chiare. Il mandato è il mandante, come era il mandato l'abbiamo sentito, perché il campo nell'orto di Viale Mazzini, il direttore generale della RAI, ha avuto un altro mandato, cioè mettere tutte le star della TV sotto il tetto di 240.000 euro annue e Fabio Fatti, l'oracolo dell'ideologicamente corretto, il conduttore unico delle coscienze buone e benedicenti, sai che succede? Che fa? Tratta con Mediaset la fuga dalla RAI. Figurati. Va dal nemico ideologico. Sì, 2 milioni di euro l'anno prende attualmente il buon Fabio Fazio, che mandò a dire attraverso Repubblica un mandato di fare in taralla a campo nell'orto se solo gli avesse decurtato il conquibus, disse nell'intervista. Un vulnus forse insuperabile, Giovanni, sto vulnus, passano vulnus. Arriva dappertutto. Come niente, proprio volano, come le bufale. Si vede, insomma, minacciato il portafogli e alza un grido d'allarme contro chi? Contro gli attacchi della politica, perché la politica gli vuole toccare il portafoglio. Sì, ce l'ha proprio una cosa, una cosa tristissima, senza soldi, disse, si provoca la rottura di un patto di fiducia tra Viale Mazzini e gli uomini e le donne che ci lavorano. Vedo Mario già commosso. Io sto lacrimando. Asciugati queste lacrime. Però, Giovanni, a cupo cuoco, poco cupo cape. Qui si abusa, si strabusa. Maurizio Caverzan, sulla verità di oggi in edicola, descrive la trattativa delle trattative. Altro che Stato e mafia, altro che pezze deviate delle istituzioni e Cosa Nostra, altro che... Baba, baciami piccina con la bocca. Altro che bacette tra Totò Riina e Giulio Andreotti, perché Caverzano oggi racconta del prossimo trasloco e già si vede andare in tutta fretta Fazio dal biscione che l'aspetta. Perciò altro che patto del Nazareno, l'accordo degli accordi Silvio Berlusconi lo fa con Fabio Fazio, altro che con Matteo Renzi, e dunque sono lodati siano i soldi, 2 milioni di euro sono niente per Mediaset. Attesa è anche Luciana Littizzetto, che ha già rodato la sua simpatica verve presso Maria De Filippi, e Fazio, che è buono, è democratico, è votato alla legalità, è animalista, è filatelico, è filologo, è filantropo con se stesso, l'argomento dei soldi lo tratta con distacco, come quando Giovanni si succò 14 milioni dalla 7 per il mancato progetto di Roberto Colaninno. Ora, il mandato manda in taralla tutto, c'è da dire, segnala Caverzano, che comunque Fazio un occhio alla 7 glielo butta, altro che se non glielo butta, perché a cupo cuoco poco cupo cape, e di buon grado lui dice che si prenderebbe tutto il fine settimana, e così il mandato andrebbe dritto all'unico uomo di mondo transitato da Cuneo, ovvero Urbano Cairo. E però si sa è Fabio Fazio che traccia il solco, ma è Beppe Caschetto, il suo agente, il vero direttore generale della RAI, a difendere questo benedetto solco, anzi a disegnare il palinsesto, Giovanni, perché questo è poco non lo so se con Cairo il buon Fabio Fazio la spunta, non lo so beh, lui ha già fatto un colpo una volta la 7, sì, ma non c'era chissà, Cairo non c'era Cairo chissà, piccolo particolare, come si suol dire, però sai, tutto il weekend ho capito, però c'è il postino, Cairo, persona bussa che sa fare i conti, segnalo, vabbè è un uomo di numeri, c'hai ancora una bolla, Mario? Sì, a proposito di numeri, eravamo giovani quando c'era questo pezzo. Jericho. Se eri all'asilo. Dai. Allora, sull'onda dei Simply Red segnalo che Oxfam, che è una importante charity internazionale, una fondazione che si occupa di aiutare i poveri, ha snocciolato un paio di dati sulle imprese americane e la loro cassa all'estero. Insomma, tra Apple, Microsoft ed altri, il conto totale di utili, diciamo, custoditi all'estero in vari paradisi fiscali e non, è di 1.600 miliardi accidenti di dollari. Niente male, insomma, significa tasse, diciamo, non pagate negli Stati Uniti, quindi il problema non è solo per l'Europa, l'Italia, come si diceva, ma è uno schema globale, pari a 135 miliardi di dollari all'anno. Per cui l'idea di Trump, diciamo, di fare il reshore, si chiama così, cioè il rientro sul suolo degli Stati Uniti di queste grandi titani che hanno solo tecnologia, ma anche lui fa rientrare i soldi. Sì, sarà interessante vedere quanti questa ne rientrano. Sì, quanti ne rientrano. Va bene, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, SMS pubblicità. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta Mix 24. Io stavo in America, questa gioventù perduta. I want that. I saw away. Ecco adesso. Steno fissò la macchina e io soggettai con tutto quello che vedevo intorno a me, sul tavolo, nelle scanzie, nelle cose, eccetera.